Sono le 22 e 2 minuti. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ho visto un'auto fuori nel parcheggio. Ho guardato per curiosità il concessionario dal Piemonte. Voi venite dal Piemonte? Fino a qui? Accidenti. Tantissima strada. L'auto Torgata Torino, lo diceva. Ti sento bassissimo, non so perché. Mi senti adesso? No. Ok, ho già capito. Aspetta. Vai. Mi senti adesso? Sì. Ci sentiamo. Ho detto un'auto Torgata Torino, il famoso pezzo di Lucio Dalla, e loro vengono da Torino. Esatto. Sì. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Enrico e Cosimo. Cosimo Morleo, esatto. Ospite questa sera all'interno di Rock Wave Live. Del mercoledì, lo ricordiamo tutti i mercoledì dalle 22 alle 24 su Blu Radio Veneto. Sergio Bortolami da questa parte, la parte tecnica, mentre... Una parte tecnica molto importante. Oh, subito. Assolutamente. Mentre insieme ai nostri ospiti c'è ovviamente Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio e ciao appunto i nostri ospiti. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Stasera ospitiamo con molto piacere Cosimo Morleo e il suo chitarrista, il suo manager, il suo produttore Enrico Fornato. Cosimo, ritorniamo un momento al discorso musicalmente come ti sei formato. Una cosa interessante che ho letto, oltre a tu sei stato un tastierista negli anni '80, hai studiato anche musica barocca. Sì. Bello, quello è molto interessante. Come mai hai studiato anche musica barocca? Guarda, allora io appunto prima ho fatto questo mio percorso, diciamo di studio della voce, no? Quindi mi sono concentrato su quello. E quindi anche un po' appunto sullo studio relativo del pianoforte, così. E quando poi, vabbè, negli anni... Eri un turnista, suonavi in parecchie band. Sì, diciamo che facevo esperienze. Facevi perché esperienze. Ero giovane, quindi mi interessavano particolarmente i sintetizzatori, no? Sintetizzatori, tastiere, quindi sperimentavo e c'erano situazioni in cui si poteva fare in quegli anni lì, no? E poi Torino era un bellissimo posto in cui fare musica, c'erano molte realtà che stavano nascendo ed era molto bello. E poi crescendo ho deciso di approfondire invece il mio strumento, che era quello della voce, e dopo aver studiato per un po' di anni quindi canto jazz, ho deciso di avvicinarmi al canto classico e da lì per una serie di scelte, diciamo anche di gusto, no, mio, e di consigli, mi sono avvicinato alla musica antica e barocca, che invece è un mondo a parte. Sì. Quindi sì, un mondo a parte che prevede tutto uno studio particolare proprio sulla prassi esecutiva del periodo, ed è stato anche molto formativo, devo dire, perché la mia musica di oggi è anche un po' figlia di quelle esperienze lì, no? Che è molto raffinata, è figlia anche di queste esperienze, perché è molto raffinata. La musica barocca è raffinata per antonomasia, chiaramente. Sì, c'è una ricerca estetica veramente e tecnica, veramente, come dire, che va al perfezionismo quasi, no? E quindi sia tutta la musica profana che la musica sacra, ovviamente è tutto improntato proprio alla ricerca della perfezione del suono, no? Dell'intonazione soprattutto. E quindi quella è stata un'esperienza molto, molto buona, che mi aiuta ancora oggi, no? Nel senso, è un bagaglio forte per riuscire a stare poi su un palco anche, come dire, in veste di cantautore. Sì, no? E poi certamente questo è il retroscena, però siamo arrivati che poi hai conosciuto Enrico sì. Fornato, che ti ha portato a un'altra esperienza praticamente. Sì. Sì, sì, sì. Questa, diciamo, questa lunga pausa degli anni in cui facevo, diciamo, il tastierista, anche un po' cantante in alcune situazioni, c'è stato poi un lunghissimo stop di circa 10 anni, no? Tra formazione e carriera un po' così nell'ambito della musica antica e barocca. E poi dopo, nel momento in cui avevo deciso di lasciare la musica in qualche maniera, mi è capitato di incontrare lui. Enrico. Sì, che può parlare anche lui adesso. Che può parlare, sì. Lo autorizziamo. Lo autorizziamo. Sì, sì, inizialmente suonavamo in un quartetto, sempre un quartetto più acustico, no? Sì. Dove iniziavi già a scrivere, ricordo. Sì, lì, ma in realtà quell'esperienza lì è stata un po', come dire, una cosa che non mi aspettavo di cominciare, no? È stata un po' così estemporanea. E poi non avevamo più il chitarrista ad un certo punto e ci serviva una persona per questa sostituzione e ci è stato proposto lui, no, in quanto valente strumentista. Ed è arrivato. Grazie. E da lì sono nate poi anche le prime canzoni, insomma, che abbiamo cominciato a suonare. E le prime idee, insomma. Le prime idee e da lì lui mi ha detto, ma senti, ma perché non ci mettiamo anche a lavorare su un disco, no? A scrivere delle cose... Cioè, perché non scrivi delle cose? Ho cominciato a pensare un po' a questa cosa. E poi io in realtà proprio gli ho fatto un po' una dichiarazione ufficiale, no? Gli ho detto, senti, ma perché non lo produci tu questo disco? Certo. E lui ha detto di sì. Bene, quindi è stato deciso assolutamente. Sì. Proviamo, hai detto. Dico. È perché aveva la direzione molto chiara e questo mi ha invogliato a partecipare. No? Al progetto praticamente. Sì, sì. Non sta anche nella proposta. Molto poco commerciale, ecco, se vuoi. Ha detto una cosa giusta. Però assolutamente onesta. Sì, è un disco molto raffinato. Molto raffinato, sì. Molto poco commerciale, una bella frase. Pochissimo questo commerciale. Poco commerciale, vero Sergio? Poco commerciale è una frase già... Che noi apprezziamo molto. E partiva da un'urgenza, c'era proprio la luce negli occhi, no? Quando se ne parlava, quindi... Ho partecipato volentieri a questo. Hai dato il tuo contributo fondamentale. Sì, sì, sì, sì. No, ma abbiamo comunque. È stata un team, no? Di idee. Che sì. Sono sviluppate. Ma quando da una parte ci sono le idee abbastanza chiare, poi metterle in bella, diciamo, è più semplice. È più semplice. No? È più semplice. Il progetto si chiama Geni Dominanti, praticamente. Non è mica un titolo da poco, Geni Dominanti. No. No, è stato. Allora, diciamo che. Da quando sono nate le prime canzoni ho capito che questo disco stava cominciando a prendere una sua vita, no? Nel senso che ogni canzone ha una storia, che è una storia legata anche a certe persone che hanno fatto attraverso la loro testimonianza, la loro storia di vita, hanno lasciato un segno importante nella nostra società e nella storia del Novecento soprattutto. E quindi è stato naturale ad un certo punto trovare questo titolo, perché Geni Dominanti ha appunto questa doppia valenza, no? E significa sia nella genetica classica i tratti dominanti che vengono tramandati da specie a specie, quelli più vincenti, no? Quindi ne determinano l'evoluzione, ma anche nell'altro significato, l'accezione quella di genio, no? che però ci fa evolvere anche da un altro punto di vista, no? Quello sociale, quello appunto quello del progresso, dell'andare avanti, e avviene sia con, che ne so, con la scienza, come nel caso di alcuni di questi di cui parlo nel disco, o attraverso la poesia o attraverso una testimonianza, che può essere una testimonianza di coraggio, di vita, per difendere per esempio una causa in cui si crede. E, diciamo, questo titolo mi sembrava appropriato proprio perché prendeva tutte e due queste cose. Quindi possiamo identificarlo come un concept album praticamente. Ma guarda, sui generis. Sì, anche se i concept album hanno un filo conduttore, però... anche questo qui ce l'ha, nel senso sì, che in qualche maniera geni. Sì, se vogliamo metterlo lì dentro, parlando di geni ci stanno in questo Bene. Cappello, sì. C'è il Novecento, no? Anche il filo conduttore. C'è anche il Novecento, che comunque è un secolo che è stato un secolo importantissimo, no? Mi stupisce sempre che l'evoluzione del mondo sia stata lunghissima, per milioni di anni non siano successe tantissime cose, poi nel Novecento invece sono successe tutto. Cose che hanno cambiato radicalmente tutto. Esattamente. Benissimo. Sì. Cominciamo a cambiare tutto, quindi sentire il primo pezzo che hai scelto in scaletta, vero Sergio? Che pezzo abbiamo scelto? Ce l'hai tu la scaletta? No, te l'ho messa là vicino al... Hai trovato? Facciamo subito a far figura. Hai trovato. No, perché poco fa era alla mia sinistra. Ho detto, non c'è più. È dal vivo anche e magari... girano, perché sono dal vivo sì. E si muovono. E magari se l'è portata via. No, è quella che apre il disco e quindi è la traccia numero uno. Ecco, la traccia molto importante. La sentiamo e poi con Cosimo e Enrico ne parliamo diffusamente. Volentieri. Fascino... della matematica e delle sale da te, dove si può restare, dove il tempo non vale. Parlami ancora di Alan Turing, mi va di camminare. Thank you. cose naturali, stasera suonano Berlioz. Cosa volevi per Natale? Parlano ancora in tedesco alla filodiffusione. Crescono le rose Bletchley Park. Santa modernità, non c'è pietà per chi guarda crescere le margherite, chi disegna sui vetri. Poca pubblicità, non c'è pietà per chi non ha voglia più di sparecchiare, o chi a rivedere non mi lasciare. Ma Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Fine, elegante. È molto elegante, visto. Un po' malinconica. Sì, esattamente. Touring, si intitola la prima traccia del disco di Cosimo Morleo. Allora, Cosimo ha un testo molto importante. Adesso lo svisceriamo. La gente deve sapere che cosa vuoi dire in touring. Allora, sì, questa canzone qui è una canzone a cui tengo molto, che ha appunto un po' dentro di sé anche nella musica, un po' quel mio mondo, diciamo, che io amo un po', della musica degli anni Ottanta, no? Un po' elettronica, new wave, elettro rock, esatto, un po' così, però diciamo senza calcare troppo la mano, no? Nel senso che volevo che ci fosse un rimando proprio alla musica elettronica, ma nel senso che, siccome questo pezzo è dedicato a colui che ha inventato il computer, volevo che questa componente ci fosse, proprio perché non volevo fare un pezzo tutto elettronico, mi piaceva che ci fosse l'idea di questo rimando elettronico, quindi con queste tastiere ossessive, no? Che continuano e si sentono per tutto il pezzo, ma suonata, tutta suonata. Quindi la cosa importante invece di questa canzone, ancora di più della parte musicale secondo me, è che è appunto dedicata a questo matematico geniale che ha inventato il sistema binario, no? Che è quello su cui si basano tutti i computer moderni. Ed è stato un personaggio molto particolare, perché quest'uomo qui, che ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, mettendo a servizio il suo cervello per contrastare, come dire, le strategie tedesche, quindi quella famosa macchina Enigma di cui ogni tanto si parla, che creava questi codici, e, insomma, lui è riuscito a creare un meccanismo attraverso il quale si riuscivano a decodificare questi codici. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale è andato ad insegnare in America, insomma, poi è tornato in Inghilterra, ma il problema di Turing era che era fondamentalmente che non si sa come, ma i servizi segreti lo tenevano d'occhio, no? E Scotland Yard era ricattato, era sì, una specie poi, di ricatto. Sì, in realtà poi hanno preso come pretesto il fatto che lui fosse omosessuale. Sì. E quindi insomma lo hanno poi condannato nel 53, se non sbaglio, a quella castrazione chimica, che è un'operazione che, come dire, agisce sul corpo in maniera molto violenta, no? Quindi facendo sviluppare una serie di tratti secondari insomma poco piacevoli, e lui si è suicidato appunto mangiando una mela avvelenata col cianuro. E questo episodio della mela avvelenata mi ha particolarmente colpito, perché insomma è una cosa che nella simbologia insomma rappresenta molte cose, no? La mela della conoscenza, la mela insomma della cacciata dal paradiso, la mela che ha anche quella roba della favola di Biancaneve, insomma, no? Un po' del cadere in questo sonno, che non è un sonno, come dire, è duraturo e perpetuo, per cui insomma ha tante simbologie, e mi ha veramente affascinato questa storia, e secondo me andava raccontata, perché è un personaggio di cui in Italia si parla poco, nel senso che viene conosciuto da poca gente, però tutti usano il cellulare, usano il computer e quant'altro, quindi mi sembrava doveroso un personaggio così importante, che anche lui è un genio, quindi ovviamente ci stava nel disco a tutti i diritti proprio di starci, e con una storia che veramente era importante. Sergio ha parlato di malinconia, io posso aggiungermi anche a decadente, secondo me è anche un pezzo decadente. Adesso parliamo con chi che ha arrangiato il pezzo, ha avuto l'idea musicale assieme a te, che è Enrico qui presente. No, dicevo, sì, facevi un discorso molto interessante al microfono spento. Adesso ne dai qualche spunto. Ah, certo, si parlava a microfoni spenti, che è uno dei motivi per cui io ho collaborato volentieri con Cosimo, è che è un cantautore atipico, no? Oltre a scrivere avere una penna che avete sentito, di un certo peso, notevole. È un cantautore che sa cantare benissimo, perché ha il curriculum, parla da solo, scuola, no? Ha fatto le scuole alte, dei cantanti di grande spessore, e si è dato molto da fare, ama molto il suo strumento, no? E si sente anche, e poi non è il tipico cantautore che si può, nonostante suoni bene il piano, non si siede come un cantautore, no? Di cui uno l'immagine del cantautore, si siede al pianoforte o con la chitarra e inizia a scrivere. Lui ha anche un'idea chiara della direzione, proprio del colore, no? Dell'arrangiamento, arrivando anche dalle tastiere. E quindi è una bella cosa, del colore dell'arrangiamento. Questa frase spieghi già molte cose. Sì, perché io me lo immagino, perché poi non l'ho mai visto scrivere. Ah, no? Perfetto. Cioè, perché comunque un cantautore si mette in disparte, no? Perché comunque è una spesso anche sofferenza, no? Bisogna raccontarsi, scriversi su un foglio. Uno poi compra i dischi, magari li ascolta con sufficienza, ma sapesse tutto il lavoro che c'è dietro, ma anche proprio di per tirar fuori quelle parole lì, certo. No? Non è facile, no? È sempre... Quindi il cantautore un po' si mette da parte e fa questa cosa qui. Lui non solo davanti al pianoforte, ma anche con mentre arrivano le parole, mi immagino che arrivino anche i suoni, i colori, il tipo di gusto, no? Che poi alla fine, non so, la spezia, no? Da mettere poi nel brano. Esatto. Quindi parlandone poi assieme, il mio apporto a questi arrangiamenti magari un po' più rocchettaro, no? Tu ricordiamo il tuo passato rockettaro, sei stato chitarrista di Alberto Fortis, fra tante altre cose. Sì. Quindi spesso mi è capitato proprio di fare il, non so, tipo il muratore, no? Come, ok, qui c'è il progetto, no? Ed era molto chiaro sempre, perché appunto questo modo di scrivere particolare, che per me, per un cantautore, è un po' diverso, un po' atipico, no? E poi al centro del discorso c'è la voce, e la voce è fondamentale. La voce. La scuola alta che Cosimo ha fatto, si sente, cioè... ha studiato per arrivare a questo, sì, a questo oltre livello. Essere un cantautore è anche un musicista, e quindi si parlava la stessa lingua, ecco, no? Cosa perfetto. Che invece appunto non sempre è possibile. Di solito il cantante non sempre è un musicista e non sempre praticamente compone i pezzi. È vero. Quindi alla fine è stata, non dico una passeggiata, però è stato divertente più che altro stare lì con le orecchie tese a capire che cosa, no? Quali erano questi ingredienti e metterli in bella, diciamo. Esattamente. Adesso li mettiamo in bella un'altra volta, perché canti un primo pezzo live, quello dal vivo. Sì, dimmi. Su questa cosa, a proposito del mettere live, no? Dall'altra parte i brani di Cosimo stanno in piedi anche senza diciamo l'arrangiamento, no? Quindi stanno da sole, insomma. Quindi magari facciamo questo esperimento, abbiamo sentito Turing, no? E proponiamo Turing in versione proprio minimale, proprio con un'idea scevro da tutto quanto, proprio come doveva essere creato all'inizio. No, più che altro per dire che è un bel pezzo, no? Si dice sempre che sta in piedi lo stesso, comunque lo vesti, come l'ha detto Paul McCartney anni fa. Comunque, una bella canzone sta sempre in piedi. Comunque se vogliamo contraddire Paul McCartney, Paul non si può direi contraddire, di no, direi di no. Ok, magari Turing, no? Cosimo, sì, okay. Assolutamente. Adesso sì. La sentiamo ancora. Fascino della matematica e delle sale da te, dove si può restare, dove il tempo non vale. Parlami ancora di Alan Turing, mi va di camminare un po'. Quanta gente al Museo di Scienze Naturali, stasera suonano Berlioz. Cosa volevi per Natale? Parlano ancora in tedesco alla filodiffusione. Crescono le rose a Bletchley Park, santa modernità. Non c'è pietà per chi guarda crescere le margherite, chi disegna sui vetri. Poca pubblicità. Non c'è pietà per chi non ha voglia più di sparecchiare, o chi arriva a dire non mi lasciare mai. La prima mela fatale ad Eva, le macchine avranno pensieri e segreti, amori e vacanze da fare in Britannia. Tutto ricomincerà da quel tuo primo bacio. In un centro commerciale farebbe comodo il metro. Davvero hai smesso di fumare? I tribunali si spostano in televisione, si accendono le luci a Scotland Yard. Santa modernità. Non c'è pietà per chi guarda crescere le margherite, o chi dipinge sui treni. Troppa velocità. non c'è città per chi vive dentro tutta un'altra vita. O vorrebbe dire, non mi aspettate più. Ne avranno pensieri e segreti, amori e vacanze da fare in Bretagna. Tutto ricomincerà. Da quel tuo ultimo bacio. Ricomincerà, sarà la guerra fino all'ultima mela. Bellissimo, la versione acustica, chitarra e voce, quindi mette ancora in chiaro le capacità vocali di Cosimo, che non è mica semplice. Notevoli. È notevole. Poi io dico ho letto una cosa molto interessante. Sì, però non lo dite più, perché sennò poi sbaglio dopo, eh? E allora lì, cioè, no, non va più bene. Ho letto una cosa molto interessante. Hai conosciuto una pianista straordinaria di quasi 90 anni. Adesso 100. Quest'anno 100. Ecco. Chi è? Quest'anno 100. È una donna straordinaria, forse la tra tutte le cose che ci sono lì dentro, no? In quelle pagine della mia storia, è forse la storia più importante, quella che non ho avuto il coraggio di raccontare in questo disco, ma forse nel prossimo. Ecco. Ecco, sì. È una donna straordinaria, è stata la prima donna compositrice in Italia, è la prima donna a essere ammessa alla scuola che per eccellenza, insomma, ha sfornato grandi talenti della composizione classica italiana, e che è l'Accademia Chigiana di Siena. E si è ritrovata appunto nel 41 ad essere la prima donna ammessa nella classe di composizione di questa istituzione storica, no? Voi immaginate cosa vuol dire, insomma, in quegli anni essere una donna che compone in una classe di soli uomini. Esattamente, una cosa straordinaria, dove il lavoro della composizione era prettamente dedicato agli uomini, di esclusività maschile, no? Certo. Assolutamente. E quindi, con tutte le difficoltà, lei, adesso la faccio breve, insomma, perché è una storia straordinaria. Dobbiamo dire ancora il nome e cognome. Beh. Matilde Capuis. Matilde Capuis, sì, che è stata festeggiata quest'anno, appunto, il suo centenario della nascita, ed è ancora viva ed è straordinaria. E appunto lei, appunto, in quegli anni è stata appunto scelta. Voi sapete che c'è ogni anno il Maggio Musicale Fiorentino, in quegli anni sceglieva la miglior composizione, no, e quell'anno scelsero la sua, no? Grande scandalo. Allora il maestro disse: ok, non diciamo al direttore d'orchestra che è la tua, perché tu sei una donna, no? Se no lui non la vuole dirigere. Certo. E quindi mi raccontava che lei andava ad ascoltare queste prove di nascosto dietro le ultime file, no? Per non farsi vedere. Però immaginate, per un compositore, cosa vuol dire scrivere la propria musica e non sentirla prendere vita, no? È una cosa assurda, no? Con un'orchestra. E quindi... E mi ricordo che mi raccontò questo episodio dove il direttore, a un certo punto, un orchestrale disse: ah, ecco, allora facciamo adesso il pezzo della Capuis. E lui, il direttore, disse: come della Capuis? No, io non suonerò mai la musica di una donna, no? E quindi questo episodio, insomma, rimase poi nella sua biografia come una delle cose più interessanti. Da lì poi, in realtà, adesso è una delle più apprezzate compositrici del Novecento, tendenzialmente in Europa è molto molto apprezzata e conosciuta. E appunto la sua amicizia mi ha insegnato molto, non solo proprio, come dire, musicalmente, ma proprio umanamente, no? Mi ha insegnato che la musica è qualcosa che va trattato con un rispetto altissimo, no? Se la ami e se lei ti ha chiamato in qualche maniera, va trattata proprio con un rispetto enorme, insomma. Hai curato anche una mostra su di lei. Ho curato una mostra insieme all'Associazione Mozart di Torino, che è un'associazione appunto dedicata al famoso compositore, al celebre compositore. Questa mostra su di lei, organizzata dal comune in questa biblioteca molto bella, che si occupa soltanto di edizioni musicali, e insomma tutto quello che è stata un po' la sua storia, quindi attraverso testimonianze fotografiche, tutte, diciamo, tutte le sue composizioni, quelle che sono state stampate nel corso degli anni dalle varie case editrici, una serie di testimonianze, insomma, è stato molto bello. Lì c'erano anche moltissime, ecco, una cosa molto importante della sua biografia è che lei ha lavorato per anni con questo grandissimo violoncellista, professor Scabia, che è stato violoncellista di Toscanini, no? Nell'orchestra di Toscanini. E insieme avevano questo duo meraviglioso dove hanno girato l'Italia e l'Europa portando in questa musica sua meravigliosa, che insomma vi consiglio di ascoltare. Cioè, in Italia abbiamo veramente dei geni che molto spesso purtroppo non vengono celebrati come tali, no? Poi all'estero invece sì. Esattamente. Lei è molto amata in Germania, dove hanno appunto tutte le sue edizioni sono lì, e appunto sto cercando con fatica in questi anni di mettere insieme una biografia che abbia comunque un suo valore, ecco, per quanto io possa essere all'altezza di farlo, su di lei speriamo appunto di pubblicarla proprio quest'anno, che insomma è il suo centenario. Bene, un'altra cosa da sottolineare è che Turing ha anche un video, mi pare. Sì, Turing ha anche un video, per tornare invece alla modernità. Alla modernità, anche se lei è moderna in ogni caso. Lei è modernissima, è la più moderna tra i musicisti che io ho conosciuto. Esattamente, è modernissima, 100 anni è modernissima anche adesso. 100 anni modernissima. E c'è questo video di Turing che è stato curato da due registi torinesi, Valerio Valente ed Enrico Cannizzo, per la Filmine Video, che è una società di Torino, e hanno fatto un bellissimo lavoro, secondo me. Io dico... A me piace molto questo lavoro che loro hanno fatto, hanno avuto carta bianca per poter decidere il soggetto, come agire completamente in libertà, e devo dire che la loro interpretazione del brano mi ha colpito, nel senso che quando appunto ho pensato al brano ho detto chissà come possono realizzarlo, no? Ci hanno pensato un po' anche loro, veramente, non è stato facile, però poi hanno trovato una soluzione che mi è piaciuta molto, molto estetica, molto, come dire, brechtiana un po', no? Nel senso di distacco, un po' fredda, però secondo me hanno rappresentato bene questa cosa della macchina, no? Della solitudine della macchina, che però in realtà diventa la solitudine di quello che ci sta di fronte alla macchina, no? Perché poi la macchina fa quello che vuole, chi la usa, no? Certo. Quindi hanno creato bene questa cosa particolare, insomma, mi piace molto, anche se appunto dentro di sé ha una sua malinconia, perché comunque il pezzo è un pezzo malinconico, certo, però le immagini mi piacciono molto, la scelta è stata fatta molto bene, poi loro sono due grandi professionisti e mi è piaciuto molto. Benissimo, adesso facciamo una cosa molto semplice, sentiamo un altro pezzo da disco, che traccia c'è, Sergio, adesso? La numero 7, Restiamo Umani. Adesso facciamo come prima, la sentiamo e poi ne parliamo. Okay. Eccola qui. Sono tornato ieri, mezzaluna rossa a terra da baciare. Ho preso casa al porto e il mare coi pescatori che mi chiamano per nome. Di tutto questo faranno un deserto e lo chiameranno pace, e la chirurgia dell'aviazione, quella degli ospedali, non conosce distinzione. E come amante ad un primo amore, dare il mio corpo e le mie parole, anche per chi si è negato a quel vento che va come me, per farsi adagio e parole da sussurrare. Restiamo umani, al di là dei nostri muri, edifici grigi, paradisi metropolitani, come in cielo e in terra. piombo fuso per i figli dai peccati originali. E scenderà la sera sui giardini e gigli bianchi da sognare. Lasciami andare, ho lettere da spedire nell'altro capo del mondo. Restiamo insieme nel silenzio in piedi o tutti a cantare. Restiamo insieme, ma avevo anch'io una casa altrove. E come amante ad un primo amore avrei paura di non farmi capire anche da chi si è piegato a quel vento che va come me per farsi adagio parole da ricordare. Restiamo umani al di là dei nostri muri, edifici grigi, paradisi metropolitani, come in cielo e in terra, abbaglianti come luci e fuochi artificiali, piombo fuso per i figli dei peccati originali. Al di là dei nostri muri, paradisi metropolitani, come in cielo e in terra, abbaglianti come luci e fuochi artificiali, piombo fuso per i figli dei peccati originali. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Cosimo Morleo, ospite degli studi di Blu Radio Veneto, insieme all'accompagnamento musicale di Enrico Fornato. Abbiamo appena sentito la traccia 7 del suo disco Geni Dominanti, dal titolo Restiamo Umani, tra parentesi piombo fuso. Ecco, Restiamo Umani, tra parentesi piombo fuso. Una piccola spiegazione. Chiaramente Cosimo. Questo pezzo è un pezzo, come dire, importante, ed è un pezzo appunto che parla, come c'è scritto appunto nel CD, è dedicato appunto a Vittorio Arrigoni, certo, questo attivista italiano che appunto è stato poi rapito e ucciso in Palestina, appunto perché si è dedicato poi gli ultimi anni appunto della sua vita alla causa palestinese, e quindi a in qualche maniera aiutare le persone che stavano lì, insomma, che sono purtroppo vittime, no? Di tutta questa violenza, insomma, una cosa bella è che comunque le persone così che si spendono per la vita, no? Poi non si bada mai alla parte dalla quale si sta, no? La vita è la vita, non è importante che poi di mezzo ci sia una guerra, se sono lì a difendere e aiutare le persone non importa, no? dove sto, però, come dire, la causa palestinese in quel caso era importante, insomma, che lui fosse lì, e ne ha dato una testimonianza proprio importante. Io appunto avevo letto delle sue cose, dei suoi testi, e come dire, mi ero appassionato a questa vita coraggiosa, no? una vita coraggiosa moderna, no? Di una persona che, come tante altre però devo dire nel mondo, si spende con la propria opera di volontariato per gli altri, no? Quindi Però insomma il suo personaggio mi ha particolarmente colpito, una storia affascinante, una persona che chiudeva ogni suo scritto, ogni sua testimonianza con questo restiamo umani, no? Che è diventato un adagio che ho trovato bellissimo, no? Cioè restiamo umani, perché se ci tolgono l'umanità non ci rimane più niente, quindi sì. Attenzione, no? Quindi un messaggio molto molto forte e molto bello. Poi ho detto: Rico, io voglio scrivere una canzone su questo personaggio, insomma, no? Però non mi oso, mi sono detto. Ho detto, poi invece nel frattempo la canzone è poi uscita. Ho detto: Enrico, io che cosa faccio? Qui adesso c'è questa canzone, ma non mi sembra il caso, no? Perché sai, a volte hai paura di cadere un po' nella retorica, perché trattare di temi, come dire, importanti su storie così grandi può diventare un po' retorico, no? Quindi bisogna fare attenzione. E allora mi sono detto, vabbè, lavoriamoci su, però poi chiediamo l'autorizzazione alla famiglia, no? Per sapere se possiamo pubblicarlo. E così mi sono messo in contatto appunto con la madre di Vittorio, sua sorella, e insomma tramite il manifesto, che è appunto il giornale, e che mi hanno messo in contatto con loro, e niente, a loro è piaciuta e mi hanno dato l'autorizzazione per pubblicarla. Quindi sono molto contento, insomma è una testimonianza che mi piace molto, perché innanzitutto è genuina, una testimonianza che mi ha veramente, come dice Enrico, no? Quando si compone alla fine è un lavoro che non è mai indolore, no? Perché comunque le vite degli altri, se tu ci scrivi delle vite degli altri, inevitabilmente escono fuori delle cose tue, ed è un'operazione che non è proprio indolore, no? Se siedi lì e sei da solo con te stesso in quel momento di cui parlava prima Enrico, diceva chissà, non l'ho mai visto, no? quando lavoro vengo trasportato in questa dimensione lussuosa, come dico io, perché purtroppo nelle nostre vite non possiamo permetterci, no? di isolarci completamente da tutto e vagare per dei giorni, no? Con la testa, no? E quando ecco succedono quei momenti straordinari si piange anche, no? Perché poi, come dire, queste cose qua tirano fuori delle cose tue profonde, insomma, certo. No? Però è anche molto bello poi quando dici caspita, tutti gli elementi vanno al loro posto, no? Magicamente, e non puoi farci niente, perché non puoi scegliere che tipo di pezzo scrivere. Io diffido sempre molto di quelli che dicono oggi scrivo un pezzo così, oggi scrivo un pezzo cos'ha. Ah, ok, va bene, beato te che riesci a pensarci. Io no, nel senso viene fuori qualcosa e viene fuori come vuole lui, no? Cioè non mi pongo il problema se devo scrivere una ballad. A volte dico adesso ho bisogno di un pezzo veloce, perché insomma scrivo sempre delle lagne, no? Devo mettere una roba un po' più. E poi invece quando me lo propongo esce fuori una ballad. Certo. La volta dopo invece dico voglio scrivere un pezzo un po' più romantico, più dolce, ed esce fuori il pezzo veloce, certo. No? Cioè è sempre così, non c'è una regola, almeno per me. Poi, e quindi insomma questo è un pezzo importante per me. Musicalmente è un pezzo che si parte dagli anni 90, quando sudavi nelle cantine di Doc's Dora praticamente. Sì. Umide cantine di Doc's. Umidissime cantine. Non era il cavern di Amburgo, però era Torino che poteva essere. Era Torino ed erano veramente sotto ed erano dei posti di un'umidità assoluta. Ecco, perfetto. Cioè, si sudava in ogni caso. Sempre. Quindi in inverno, d'estate, una roba muffa, terribile. Quindi terribile. Ne pago le conseguenze ancora oggi, evidentemente. Però questo anni 90 si è un po' sviluppato, in questo pezzo si è un po' allontanato e ha lasciato le briglie sciolte a Enrico, che ha messo un pezzo rock, alla fine quasi punk secondo me, come una specie di atonale in tutti i sensi, a melodico, la melodia si è un po' sviluppata, si è allontanata, l'hai tirata. Sì, nella coda del brano. Nella coda del brano. Sì. Come mai Enrico questa idea, con un testo importante? Diciamo che qui stiamo parlando di un personaggio che, no? Aveva tutto tranne che fronzoli. È chiaro, sì. Ok, e quindi l'idea è un po' quella, no? Si entra con Restiamo Umani e dopo deve succedere qualcosa di... Piombo fuso poi alla fine. Sì, se ci fai caso poi rispetto agli altri brani del disco... È quello che ha i riverberi più asciutti, sì. I riverberi piccoli, cioè no, le stanzine piccole dei riverberi, quindi un suono proprio dritto in faccia, perché è un messaggio, questo voleva aiutare la parola ad arrivare dritta all'ascoltatore, no? Senza tanti giri praticamente. Sì, e poi questa chitarra alla fine, questa coda è un po'... A me ha ispirato un po', magari Cosimo non lo sa neanche, perché non lo sa mai. Dice adesso. Ma perché lui, allora, tu non sai, ma lui non parla mai alle interviste, cioè, hai compiuto questo miracolo questa sera, lo fai parlare. Ma perché mi sento a casa, bene. Sono, c'è il 50% di Veneto che c'è in me che esce alla grande. Complimenti. Dobbiamo ricordare che Enrico è d'origine di Rovigo. Sì, la mamma. La mamma, salutiamo la mamma. Ciao mamma. Allora no, è un po' quello che un po' mi rimaneva di quelle terre, no? Di quanta gente ci sia, abbia messo del suo lì, no? E quanto continuiamo a queste terre restituiscono questo messaggio che poi è lì, sembra quasi non... queste persone sono dei grandi, ci sono ad esempio, e sembra sempre che questi mondi, no, queste cose che succedono siano così, non si riescano a cambiare mai, no? E questi personaggi continuano a crederci, e questa cosa qua, questa coda mi ha lasciato un po'... Questa chitarra martellante, molto fisica, vorrei dire. Sì, molto fisica, ma io in realtà sono, cioè, pesando 100 kg, essendo 1,90 m, sì, sei molto fisico, sono sì. Gentile, ma un approccio molto... anche se arrivo dal jazz, dall'improvvisazione, ma sono... dentro di me c'è un rocchettaro. Mi pare giusto. Fa bene alla salute. Si fa molto bene alla salute. Fa sempre bene alla salute. Cosa dici, Sergio? Si fa bene alla salute. Giusto. Terapia. Sì. Comunque, questo, la coda un po' punk era questa cosa qui. Alla fine, purtroppo, continuano a rimanere i missili, continuano a rimanere non cambia niente. Queste cose incomprensibili. E nonostante questi eroi, perché questi poi sono persone da cui c'è da imparare, insomma. Certo. Dunque adesso suoniamo qualcosa. Che cosa suonate adesso? Facciamo questa. Inversione proprio acustica, sì. Voce e chitarra. Sì. Per chi si fosse perso le parole. Di nuovo, io collaborando con i cantautori ho imparato ad ascoltare le parole. No, perché da musicista si tende ad ascoltare tre volte il brano, sentire guarda questa batteria come ha suonato, qual è il tipo di riverbero, le cose, no? E poi dopo al terzo ascolto arrivano le parole. In realtà bisognerebbe fare esattamente il contrario. Che una canzone nasce per il testo, fondamentalmente, certo. No? Certo. E poi capire quanto sono stati bravi a metterci la musica giusta sotto. Ecco, quello è dopo. L'arrangiamento quello giusto è dopo. Sotto. Quindi sentiamo le parole e restiamo umani. Sono tornato ieri, mezzaluna rossa a terra da baciare. Ho preso casa al porto e il mare coi pescatori che mi chiamano per nome. E tutto questo faranno un deserto e lo chiameranno pace. E la chirurgia dell'aviazione, quella degli ospedali, non conosce distinzione. E come amante ad un primo amore, darei il mio corpo e le mie parole anche per chi si è negato a quel vento che va come me. Per farsi adagio parole da sussurrare, restiamo umani. Al di là dei nostri muri, edifici grigi, paradisi metropolitani, come in cielo e in terra, abbaglianti come luci e fuochi artificiali, piombo fuso per i figli ai peccati originali. la sera, i giardini e i cigli bianchi da sognare. Occhi amari, lasciami andare, ho lettere da spedire all'altro capo del mondo. Restiamo insieme nel silenzio in piedi o tutti a cantare. Restiamo insieme, ma avevo anch'io una casa altrove. E come amante ad un primo amore avrei paura di non farmi capire anche da chi si è negato a quel vento che va come me per farsi adagio parole da ricordare. Restiamo umani al di là dei nostri muri, edifici grigi, paradisi metropolitani, come in cielo e in terra, abbaglianti come luci e fuochi artificiali, piombo fuso per i figli dai peccati originali, al di là dei nostri muri, paradisi metropolitani, come in cielo e in terra, abbaglianti come luci e fuochi artificiali, piombo fuso per i figli dai peccati originali. Blu Radio Veneto. Ok, abbiamo sentito la versione acustica, proprio scheletrica, voce e chitarra di questo pezzo. Adesso parliamo di una cosa fondamentale, la band. La band è fondamentale in questo disco. Le sonorità che dà la band sono essenziali. Una band importante, oltre a Enrico qui presente. Adesso ci vuoi presentare gli altri componenti, Cosimo, della band? Allora, io devo dire di essere molto contento e onorato anche di far parte di questo progetto insieme a persone di cui ho grande stima, grandi musicisti che hanno lavorato comunque sulla scena non solo piemontese ma anche proprio italiana, no? Esatto. Per cui e mi accompagnano nelle performance che facciamo, appunto Exir Gennari, che è un bravissimo batterista veramente eccellente, che appunto anche lui dal passato, come dire, di un certo peso, insomma, ha fatto parte appunto oltre ai Fratelli di Sole ed anche dei Tribà, anche l'orchestra Arturo Piazza, che ha avuto anche insomma un suo momento interessante. Notevole, esatto. E poi c'è Gilberto Bonetto, che è appunto al piano, invece, che è appunto pianista dei Jambalaya, ma che ha anche un suo, come dire, percorso di musica classica e jazzistica, insomma, ma comunque questo percorso appunto con i Jambalaya che è interessante in questo momento. Poi abbiamo al basso Gianfranco Nasso, che precedentemente ha avuto esperienze, diciamo, al basso con i Mambassa. Mambassa, esatto, sì. E poi abbiamo... Sì, ecco, poi nel disco invece, perché Gianfranco c'è dal vivo, mentre nel disco ha suonato Andrea Rosatelli, che appunto... È stata una scelta, come dire, produttiva, anche sì, artistica. Vuoi dire tu? Sì. Sì, sì, sì, sì. Tanto ormai sei anche parlante. Pensa. Come il grillo. Il grillo parla. È fantastico, ma parla sempre, Enrico, è bellissimo. Pensa a te. No, Andrea Rosatelli era perché il problema dell'italiano è di nuovo trovare un bassista pop almeno. Poi specialmente a Torino. A Torino ci sono grandissimi bassisti jazz, no? E qui c'era la necessità di poi la musica di Cosimo ha il basso diciamo ha un ruolo fondamentale, se sì, senti, no? Molto importante. Sì, sì, sì, anche perché a lui così come piace proprio lo strumento, sentire le. E quindi, non so, ci siamo affidati a Andrea Rosatelli, che ho conosciuto a una fiera a Roma, un amico, perché aveva questo suono pop e anche questo approccio pop, no? Dove pur suonando tante note riusciva comunque a essere... diciamo non suonare per se stesso, no? Ma sempre avere il giusto groove sul brano e riuscire ad avere quel suono lì, quel suono pop che è difficile definizione. Io se queste cose che non vuol dire andare a tempo, no? Vuol dire oltre a essere a tempo, ma avere il giusto timing, il giusto groove, no? Come si dice ed è una cosa che non purtroppo quando la sento dico ok, va bene, è lui. No? Le persone a cui non devi spiegare nulla, no? Gli abbiamo dato le parti MIDI e lui le ha rese vive. Che cosa sono le parti MIDI? Per chi non lo sa? Sì, sì. No, sono stati arrangiati i bassi MIDI, ecco. No? E dove praticamente sono state suonate dal computer, no? Si è stata scritta la parte musicale del basso ed è stata mandata questa ad Andrea, che le ha rese vive, le ha sostituito le note suonate dal computer con le note del basso, mettendoci, perché comunque un'altra cosa bella è quando non essere troppo quando si produce qualcosa si sceglie un musicista non a caso. No? Ho capito. Quindi bisogna lasciare la possibilità al musicista di esprimersi. Il problema è scegliere il musicista giusto. Ecco. Ok, no? Quindi questo anche produrre questo disco mi ha insegnato molto. Anche quindi il ruolo del produttore è anche di collegamento. Sì, è un po' l'allenatore. È un po' l'allenatore della squadra. Ti metto in campo perché lavori per la squadra, no? Non perché diventerai miliardario. Sì, esatto. E questo è importante. Ci sono grandissimi musicisti che magari hanno un ego troppo sviluppato. Per accompagnare un cantautore, no? Questo ego va tenuto a freno, perché l'ego può praticamente oscurare il cantautore stesso. Sì. Io ho un'attitudine da gregario e i gregari li riconosco proprio così a pelle. E Andrea è uno di questi, è un grandissimo bassista, un grandissimo musicista, però era quello giusto per me, per questa... così mi ha lasciato carta bianca in questo. Sì, infatti. Erano un po' gli accordi all'inizio, no? Sì, cioè, volentieri, ma lo facciamo con i musicisti che dico io. No, infatti, ma poi Andrea è un musicista di grandissima esperienza. Sì. Insomma, anche lui ha un curriculum strepitoso. Con Cristicchi, piuttosto che insomma. Sì, lo si vede spesso in TV, anche nelle varie orchestre che accompagnano i programmi televisivi. Sì, un grande di qualità. Tu hai detto una cosa giusta, Enrico. Il discorso del pop. Perché il pezzo il disco di Cosimo è pop, ma il pop non il pop che si conosce, un pop molto raffinato, pop da popular. Sì. E questo dobbiamo considerare questa frase, popular. Non è una malattia il pop. No, esatto, non deve essere una malattia. E molti se la vivono così. Perché tutti la identificano con le canzonette. Sì, sì, ma non è proprio la stessa cosa. Ma no, ma perché secondo me... dici, Sergio? No, sono pienamente d'accordo, si possono dire cose... profonde, suonate anche bene, però che facciano anche presa sulla gente, insomma, sulla massa, insomma. Certo. Sì, ma infatti, se posso dire, no, questa roba del pop, no, nella scena indipendente, perché poi io comunque sono un cantautore che utilizzo, come dire, la modalità forma canzone, no? Certo. Che è questa modalità qui che conosciamo tutti, strofa, ritornello, bridge, special, come vogliamo chiamarlo. Però appunto nell'ambiente della musica indipendente di cui io faccio parte, perché faccio parte di questa etichetta, dopo ne parliamo, sì. Come dire, nel panorama indipendente fare diciamo il pop non è proprio facile, no? Nel senso che sembra come fuori contesto, no? Quindi, però invece io devo dire, devo ringraziare comunque la mia etichetta, perché è un'etichetta coraggiosa, dove comunque il fatto di dire delle cose di senso compiuto e raccontare delle storie con questa formula così, come dire, semplice, ma è, come dire, non è proprio così, se è vero, no? Ha, devo dire, grande merito comunque l'etichetta, appunto, Control Records, di cui parleremo dopo. Cioè, beh, a mettere in... parlare sì, anche adesso, visto sì, che ma ci siamo. Sì, in realtà, perché proprio mette insieme cose differenti. Io, appunto, parlando con Davide, che è poi la persona, Davide Tosques, che è la persona che ha fondato l'etichetta, in effetti non pensavo che potesse essere, come dire, un progetto che potesse rientrare, no, tra quelli che ci sono in etichetta. Invece a lui è piaciuto molto il disco, devo dire con grande intelligenza, insomma, ha apprezzato il lavoro e sensibilità, e poi è nata ovviamente anche questa amicizia, insomma. E, per cui non è facile, no? Nel senso che oggi il pop è considerato una musica, come dire, di bassa qualità, se sì, vogliamo, dall'ambiente, no? Indipendente. Ma non è proprio così falso, no? Perché comunque ci hanno abituati a sentire il pop come una roba fatta anche produttivamente parlando benissimo, però con dei contenuti veramente, veramente lirici, dico, no? Di testuali molto, molto bassi, no? Per cui fatti proprio per, come dire, non per la massa, è una roba che non mi piace, no? Cioè, il termine popolare è una cosa molto bella invece, no? Popolare significa che è una cosa che appartiene a tutti, cioè più bella di una roba che appartiene al popolo non c'è, non secondo c'è. Me vuol dire che veramente hai trovato una formula di accesso, no? Poi voglio dire, anche David Bowie è pop, certo, ecco, però io me lo ascolto molto volentieri, cioè meglio lui e di altri, di insomma, altri, no? Di altri. Certo, come dire, chiaro che se devo ascoltare per forza, poi peraltro, perché se vado in un bar oppure se vado in palestra, in piscina, mi ascolto il pop di X Factor o mi ascolto il pop di qualche altro talent, no? E lì allora mi dispiace, perché non tutti i prodotti sono di livello, di un livello che abbia rispetto, secondo me, dell'ascoltatore medio, perché certo, li sottovalutano, no? Cioè non puoi usare delle parole, come dire, così, sì, no? Così, smaccatamente banali, no? Cioè, le persone hanno bisogno anche di profondità. Io lo credo ancora a questo. Per cui, quando scrivo una canzone, faccio veramente attenzione al fatto che una cosa non sia per forza spiattellata lì, no? Cioè, mi piace proprio pensare che di non svelare tutto. Quindi, lavorare con le metafore, lavorare con i giri, insomma, di senso, no? Per cui ho molto rispetto di chi ascolta, chiunque sia, per cui dico, ok, andrà a cercarsi se ha voglia, no? Giusto. Un significato. È la quella che identifica l'etichetta è questa frase interessante: i dischi li facciamo col cuore, dei contratti, questo è importante, con una stretta di mano. È vero. I contratti adesso non si fanno più con una stretta di mano, si fanno i contratti, una volta si facevano i contratti con una stretta di mano, quindi c'è amicizia non soltanto tra artisti. A proposito di artisti, ricordiamo Salvo Ruolo, che è un tuo amico, un nostro amico, uno sì, che infatti frequenta sempre la nostra, con molta gioia, la nostra emittente, che fa parte dell'etichetta di Davide. Esatto, no, infatti lo saluto assolutamente, Salvo, appunto, ci eravamo sentiti anche per vederci in questa occasione. Sì, non è potuto venire stasera. Non è potuto venire, ma vabbè, però, lo salutiamo. È sempre presente. Sì, sì, sì, ed è un artista che stimo molto, infatti, pur essendo veramente molto diversi, perché poi Salvo fa una musica assolutamente diversa. Sì, molto americana. Molto americana, con una ricerca lirica anche diversa, sì, certo, insomma. Però, come dire, c'è una stima reciproca bellissima. Chiaro. Per cui quello che c'è di bello, secondo me, nel fare musica onestamente sempre, sto parlando di, appunto, esigenze vere, no, di scrittura, credo che sia proprio questo che avvicina poi gli artisti, no? Cioè, differenti, diversissimi, ma stima, sì, una umana, stima reciproca umana, esattamente. Sentiamo un altro pezzo da disco, Sergio, che traccia è questa adesso? Ti ricordo che c'è la famosa, ma adesso facciamo il pezzo e dopo facciamo la domandina. Così spezziamo con un po' di musica, sì, esatto, i vostri più che altro e loro non lo sanno che domandina è. Dopo, a momenti è una domandina, è una sola domanda ma contiene quante? 5, facciamo, sì, risposte, facciamo a te, 5 risposte. Sono in due, sì. Allora, la traccia è la numero 4, la prossima si intitola Insetti. Com'era un tempo, c'erano fiori, animali stranissimi, città grandi affollate, dove la gente aveva smesso di cantare. L'attimo prima della misteriosa scomparsa delle api ci tenevamo per mano senza troppi pensieri. Ti ho mai parlato degli sciami di farfalle e di guerre sante? Se tu sapessi anche solo immaginare la fioritura dei ciliegi in Giappone, oppure milioni di meduse danzare, eterne spose delle correnti del mare, l'estasi dei sensi, se ci pensi ritorna reale, l'era degli insetti era molto speciale. Spieghi l'istinto dei pesci ed uccelli a raggiungersi in zone remote senza errori di navigazione. Non ci furono indizi della misteriosa scomparsa delle api, facevamo programmi per le vacanze estive. Ti ho mai parlato della grande stanza d'ambra e di stelle d'acqua? Se tu sapessi anche solo immaginare interi campi di papà veri al sole, pure milioni di spighe piegate al volere di un lontanissimo padrone, l'estasi dei sensi, se ci pensi ritorna reale, l'era degli insetti era molto speciale. Se tu sapessi Radio Veneto. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, Blu Radio Veneto, Sergio e Maurizio all'interno di Rock Wave Live del mercoledì, questa sera con Cosimo Morleo e Enrico Fornatto. Sì, una breve descrizione di insetti e poi facciamo il giochino. Ok, due parole. Insetti nasce da un'idea legata appunto alla teoria di Einstein della sparizione delle api. Era molto interessante, mi ha colpito molto questa, adesso se ne sente parlare un po' di più, questa, sì, questa teoria che dice che quando spariranno le api alla Terra rimarranno pochi anni, circa 4, no? O anche meno forse, di sopravvivenza, perché a causa dell'impollinazione, insomma. E quindi ho pensato a questa cosa degli insetti, no? E quindi del ruolo centrale degli insetti in un mondo che comunque è, come dire, molto legato ai processi della natura, no? Ovviamente, sono indispensabili. Poi l'uomo pensa di esserlo molto di più, ma infatti non è vero, è un po' solo un ospite, no? È solo un ospite. Quindi questa cosa qui di questo elemento mi ha molto stuzzicato ed è nata questa canzone che in realtà racconta la storia di due immaginari personaggi, uno dei quali è nato in un tempo in cui la Terra era ancora, come dire, florida e c'erano ancora appunto tutti gli insetti e tutto era perfetto, e l'altro invece che è nato in una generazione successiva, no? Quindi non ha visto la meraviglia che c'era prima, e l'altro racconta questo splendore, no? Con questo splendore, con nostalgia, e insomma era un po' così, un po' questa visione apocalittica, futuristica, un po' strana, un po' fantascientifica, però mi ha molto stuzzicato, ecco. E musicalmente aveva quel contorno del prog che non fa mai male alla salute, come abbiamo parlato del rock prima. Assolutamente. Nell'interno, nel cui parte centrale era molto melodiosa, perché è una caratteristica di questo album di Cosimo e di Enrico, che ha partecipato, lui dice tra il 30 e il 70%, sì, facciamo il 50%, vabbè, non importa, e la caratteristica di avere nei ritornelli sempre queste fasi molto melodiose, molto melodiche, al di là che nella coda è l'inizio, no, però nei ritornelli sì. È vero. Sono assolutamente d'accordo. Di nuovo è grazie a chi scrive. No? Sì, grazie a chi scrive, nel senso che non si mette la melodia all'ultimo posto, no? E si riesce anche a inserire il testo in modo che una melodia arrivi, no? Perché spesso può succedere che zeppi un ritornello di parole e la melodia non esce, o quindi chi scrive ha avuto un momento di grazia in quel momento lì, cioè mentre la scriveva la canzone. Poi qui nell'arrangiamento ci sono anche un po' di, anche lì, se su Turing si è cercato di far uscire dall'arrangiamento le macchine, no? Certo. Con la voce filtrata all'inizio, massacrata, sì, dal compressore, dai flanger, in modo che fosse un robottino, no? che iniziasse la canzone, qui ci sono gli insetti. Esattamente, no? L'uscita dal primo ritornello con questi accordi malatissimi, no? Di stampo proprio free, jazz, cose molto storte, grazie anche a Gilberto Gibi Bonetto, no? che ha una preparazione classica, ma il jazz lo conosce come si deve, no? Notevole. Sempre tornando al discorso di prima, uno chiama un musicista e sarebbe un peccato dargli tutto scritto, no? Si racconta che, sì, cosa deve succedere. Lui è un artista e ha suonato. Raccontato bene. Sì, anche in coda ci sono questi insetti, sì, che svolazzano qua e là con delle dissonanze, prog, no? Insetti prog. Sì, sì, sì, perché l'insetto è fastidioso. È fastidioso. Sì, sì. Bene, adesso non come il testo, non il testo di Cosimo, no, l'insetto. No, l'insetto in se stesso. Adesso facciamo quello che Sergio prima mi aveva però invitato. Scusate, a fare. Posso dirmi una cosa? Perché mi sono dimenticato un elemento della band. Però, dimmi, certo. Perché dal vivo ci accompagna anche Sabrina Pallini. Ecco, sì, ecco, sì. Sabrina Pallini è, diciamo, in questo progetto mi fa tutte le seconde voci, perché come avete sentito nel disco mi faccio tutte le, sì, seconde voci. Fai anche le seconde voci. E lei invece me le fa dal vivo. Dal vivo. Ed è veramente straordinario, nel senso che veramente non è facile fare questo tipo di armonizzazioni, no? E abbiamo, io e lei ci conosciamo da 20 anni ed è un'artista molto molto brava. Lei è molto, diciamo, più nella scena reggae, no? Internazionale, anche perché ha lavorato con grandissimi artisti del panorama internazionale del reggae, insomma, e attualmente fa delle cose veramente molto interessanti, e per amicizia davvero fa parte di questo progetto anche lei dal vivo, molto molto brava, insomma, ha realizzato un disco in Giamaica, insomma è una piccola come dire, perla della scena torinese, insomma. Benissimo, adesso facciamo quel giochetto, vero? Cosa dici, Sergio? Ora siamo anche in ritardo. Sì, ma leggermente in ritardo, sì, leggermente. Allora, no, chiediamo solitamente ai nostri ospiti 3 o 5, visto che siete solamente in 2, facciamo pure 5 dischi che portereste in una ipotetica, insomma, isola deserta. Nuovi, vecchi. Ah, mi lasci subito. Vai, Cosimo, tanto perché possiamo dire gli stessi dischi, ovviamente. No, sarebbe meglio succederà. Di no. Non succederà. Secondo me succederà. Non succederà. Dai, possibilmente no compilation e via dicendo. Ecco, no compilation. No compilation. Ma io credo che porterei sì. Posso dire una cosa sulle compilation? Non mi piacciono. Ma oddio, perché dipende, per carità. Tolti i contenuti, sono però di nuovo, quando uno fa un disco, pensa alla scaletta di un disco. Ah, beh, sì. No? E questa è, sembra una, di nuovo un'altra di quelle passeggiate. Ah, ho messo i pezzi a caso. No. E in questo disco di Cosimo è stata fatta attenzione anche al non i 2 secondi tra un brano e l'altro, no? Che è una cosa standard, ma. Anche musicalmente, artisticamente, come da un brano si esce e si entra nell'altro. Quasi un concept album, quasi. Sempre pensando alla scaletta. Alla scaletta. No? Quindi anche questo qui. Ma no, soprattutto pensando che uno ascolti il disco. Pensando che uno ascolti il disco, invece scarica da iTunes i pezzi che gli piacciono. E allora, ciao scaletta. Solo alcuni, esatto. Ciao scaletta, capito? È per chi fa direzione artistica, per gli artisti questa cosa qua è una cosa massacrante. Lo so. Dici, ma come fai? Ma non importa. Però noi non scaricate, non su occupiamo. iTunes c'è Geni Dominato. Dopo diamo gli indizi per quello. Ok. Vai. Vado io? Certo. Allora, io credo che porterei un disco di Joni Mitchell, che è una mia grande passione, e forse porterei Blue. Che forse il più bello del primo periodo. Del primo periodo, sì. E quella mi piace molto. Bene. Uno me lo porto sicuramente. Ok. Facciamo tipo tennis. Sì, vai, facciamo vai. Tipo tennis. Le Zeppelin 1. Ecco, un altro disco importante. Decisamente importante. Importante perché ha cominciato l'era dei Led Zeppelin 1, 2, 3, 4. Led Zeppelin, sì. Sono sempre stati grandissimi. Sì. Quello però ha dato una scossa. Sì. Non da poco. Tocca a te. Io porterei Johann Sebastian Bach. Quello non fa, non da scosse sempre quello. Sì, non so, tipo, credo. Ecco, forse una delle più belle, la messa in si minore. Ah, benissimo. Io faccio proprio il tamarro, attenzione. Cioè, Van Halen 1. Ah, come mai ti ami Van Halen? Perché. Tu sei un chitarrista. Sì, ma. Non soltanto per quello. Sì, no. Perché mi lega a un certo periodo della mia vita. Io ero proprio piccolino e mi svegliavo con queste cose qua, no? Perché spesso mi capitava di dormire in posti dove, tipo camerate, e c'era chi ci svegliava con questo suono. Mi svegliavo con i Van Halen e facevo, mi svegliava facevo bene. Le medie, no? Sì. E ho iniziato a suonare la chitarra grazie a queste persone qui, quindi sono proprio tolto che è di Van Halen. Di nuovo un altro maestro. Un no? altro maestro, esattamente. Anche se è stato scoperto da tutti con Jump. Sì. Ma infatti poi. Vabbè. Che non è proprio un pezzo da classifica. È un bel pezzo pop da classifica. Sì. Io invece mi porto un disco. Sai quelle cose che proprio ti fa piacere ascoltare così? Ed è uno delle cose che. Degli artisti che mi piacciono di più. E mi porterei Peter Gabriel So. Ah, cosa ne pensi, Sergio, della scelta di Peter Gabriel? Me ne intendo poco. Beh, per carità. Cioè, è un bel disco, so. Non vale, però. Non vale, perché avevi pensato anche te. Ah, l'avevi pensato anche te, quello. Vabbè, però non si può copiare. Le regole non si può copiare. Sì. Okay. Beh, un altro disco di Peter Gabriel puoi portare. No. No, sì. So primo, secondo. So è interessante. So è interessante dal punto di vista produttivo. Red Rain. Sì, Red Rain è un grandissimo pezzo, sì. per suonare il Charleston chiamiamo il batterista di Police, no? Certo. Solo per suonare il Charleston. Sì, rimuovo sempre per l'idea di prima. E questo per, di un, lui, per un produttore. Ma lui può permettersi di suonare, di prendere, di, sì, di ospitare. In quel periodo era il Charleston per eccellenza. Certo. Dire. Ok. Anime Salve. Ah, l'ultimo disco di De André. Sì. Con Fossati, praticamente. Con Fossati. Tocca a te, Cosimo, adesso. È difficile, accidenti. Io invece... sì, io porterei invece un disco di Ivano Fossati. Anzi, sì, un disco di Ivano Fossati. Però sono veramente tanto combattuto qui, perché Ivano Fossati è dura scegliere adesso. Ne ha fatti tanti. Ne ha fatti tanti di belli. Ma non lo so, forse uno dei più introspettivi mi piacerebbe, tipo Macramè. Macramè. A me piace molto La pianta del tè. Mi piace molto come sonorità, uno dei più belli secondo me, mio parere personale, assolutamente. Sì. Anche se lui ha cominciato con i Delirium, ricordiamo, Israele, ha scritto lui e poi ha fatto quel album prog meraviglioso, sempre con i Delirium, però poi ha fatto anche La pianta del tè, e i musicisti ampliano il discorso. Sì. Tutu di Miles Davis. Vai sul disco più pop di Miles Davis in assoluto, quello che ha raggiunto livelli di vendita molto alti, perché ha raggiunto gente che non conosceva Miles Davis. Certo. E poi un disco che non è stato scritto da Miles Davis. Esattamente, dobbiamo sottolineare anche questo. Tocca a te. Ma allora io ne avrei un po', da, purtroppo ce n'è, però solo 5. Ma guarda, farei proprio una scelta un po' così, una scelta di omaggio, comunque un'artista italiana che mi piace molto, io porterei Voce prigioniera di Giuni Russo. Ah, sei stato dunque in tanti anni che facciamo questo giochetto, penso sei stato il secondo che ha parlato di Giuni Russo come musicista di un album suo, che non è semplice. Giuni Russo è stata una delle più importanti interpreti italiane, proprio, ma nel senso che era veramente un interprete, ma non di quelle che sentiamo oggi, cioè era una che aveva la tecnica vocale superlativa, pazzesca, ma che aveva un'intensità sul palco di affrontare il brano pazzesca, cioè una sensibilità che è veramente difficile trovare oggi in giro, cioè è veramente una cosa che se hai un minimo di cuore e di sensibilità ti stende davvero. Certo, bene, penso sia l'ultimo. Di nuovo da produttore artistico, Thriller di Michael Jackson. Vabbè, lo so, non vale. Questo come produttore, stiamo andando proprio. Quincy Jones. C'è solo da imparare. Sì. C'è imparare per le coppie, c'è imparare con gli arrangiamenti, c'è imparare un po' di tutto. Quel modo di fare. A me Michael Jackson non piace, dico la verità. Però Thriller. Thriller, vero, Sergio? Sì, Thriller, sì. Anche se non piace, devi metterti davanti a un disco perfetto. Perfetto al 100%. Sì. Perfetto in tutto. In tutto, dall'A alla Z. Sì. Poi mi è capitato di ascoltare su YouTube quello che Michael Jackson ha portato al suo produttore, no? Solo fatto tutto con la voce, tipo la batteria, il basso, no? Ed è cosa poi è diventato McFerrin. Il disco pazzesco. Cioè, ho detto, okay. Sì, ma ha trovato anche Quincy Jones. Appunto, è quello. Quanto ha pesato Quincy Jones? Ha pesato tanto. Appunto, si possono portare pochi dischi, quindi. I dischi di Quincy Jones non li porto, ma... Ma quando prodotti da lui... Sì. Prodotti per Michael Jackson. Non parliamo di altre produzioni. Certo. Prodotti per Michael Jackson. Sì. Io dico l'ultimo invece mio. Sì. Ce n'è ancora una di cartuccia? Sì, l'ultima cartuccia. Sì. Mi voglio rovinare perché poi, insomma, tanto le... dico questa cosa, mi porterei L'era del cinghiale bianco di Battiato. Non ti rovini mica. Mi rovino perché poi mi dicono sempre che ho le similitudini con Battiato, no? Scrivono sempre questa cosa, ma va bene, tanto insomma è anche un complimento, è un complimento bello, insomma. me lo vivo proprio con serenità. È un disco L'era del cinghiale bianco è un disco pazzesco, no? Per cui, ed è un disco dove appunto la musica è centrale, oltre alla parte testuale che è fatta tutta su un lavoro di ricerca, insomma era il periodo esoterico, quello di Guénon, no? Quel periodo un po' lì, però ecco, la musica anche a livello ritmico e la scelta dei musicisti era veramente di altissimo profilo, insomma. C'era da Tullio d'Episcopo a tutti i grandi. C'era Giusto Pio che produceva l'album all'epoca. Sì, penso che fosse Giusto Pio, sì, che erano proprio gli anni, insomma, della loro collaborazione, sì, più importante, insomma. Sì, l'anno del milione di copie, che lui è stato il primo musicista italiano a superare il milione di copie, come 33 giri, si parla di 33 giri, noi 45 che da lungi erano superate, però come 33 giri sì. Disco suonato nel futuro, nel senso proprio, ma molto di più secondo me dei dischi suoi elettronici, no? Quelli proprio degli anni 80, dove si sentiva proprio l'influenza della new wave piuttosto che insomma della musica elettronica. Quello era secondo me avanti, perché era, come dire, musica suonata davvero, e però, come dire, viveva di queste atmosfere, no? La musica era tutta suonata insieme, era si catturava proprio il momento, come dire, magico dell'interplay, no? Ed era veramente, si sente, se tu lo metti su oggi senti, è ancora valido, è ancora valido, sì. Assolutamente bene. Adesso sono le 23:30 quasi, vero? Dobbiamo andarcene, quindi. No, assolutamente, abbiamo ancora mezz'ora. 23:27, un'altra mezz'ora, mezz'oretta. Allora adesso suoniamo qualcosa che la gente vuole sentire, la musica di Cosimo e di Enrico. Che cosa, Cosimo? Allora, lo dico io che ho ancora le cuffie, va bene? Okay. Sto preparando. Sì, lo dico perché così a favore del pubblico da casa, no? Che, vorremmo fare questo pezzo qui che si chiama La Recessione. Che è un pezzo importante. Perché? È importante perché noi lo facevamo già dal vivo questo pezzo qui. E poi a un certo punto ho detto: senti, mettiamolo nel disco, perché questo pezzo io lo sento veramente tanto e volevo raccontare questa storia, no? Un po' perché la recessione è come dire, guarda caso, è un momento che stiamo vivendo, sì. Inevitabilmente e innegabilmente lo stiamo vivendo. È un po' perché c'era questo testo importante di Pasolini, certo, che appunto da quando sono ragazzo, insomma dal liceo, è sempre stato un mio punto di riferimento, sia poetico, perché grandissimo poeta, e anche, come dire, intellettuale, insomma raffinato, di quelli che ce ne sono, ormai ce ne sono pochi, insomma, no? Anzi non ce ne sono quasi più, direi, no? di quella levatura morale e onestà intellettuale. E invece la musica di questo brano è di Mino Di Martino, appunto. Dobbiamo sottolineare una cosa. Io lo conosco, però non tanti lo conosco. Chi è? Ecco, Mino Di Martino ha fatto parte appunto dei Giganti, che è una delle, sì, formazioni storiche del beat italiano. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, proposta, ecco, tanto per cambiare. Esatto, ed è che ho avuto il piacere di conoscere, e devo dire un autore intellettuale molto interessante, appunto ha collaborato con Battiato, ha scritto un brano per Giuni Russo, anche cantato nel suo album bellissimo che non ho citato tra quelli da portare sullo spazio, Energie. Mi pare che abbia scritto anche qualche pezzo per il nuovo di Alice. Per il nuovo di Alice ha scritto questi bellissimi brani per quest'ultimo lavoro di Alice, che è molto interessante. È molto bello, sì. Molto bello, che si chiama Samsara. Esatto. E ha scritto questi brani che sono molto molto interessanti. E quindi insomma, e vabbè, questo è tutto una serie di cose, nel senso che io Mino Di Martino non lo conoscevo affatto, nel senso di persona. Poi per una serie di motivi ci siamo conosciuti a Torino, ci siamo incontrati e gli ho fatto sentire poi invece il brano che avevo inciso, insomma, e gli è piaciuto. E quindi insomma, e vi facciamo questo brano, La Recessione. Vedremo calzoni coi rattoppi, rossi tramonti sui borghi, vuoti di macchine, pieni di povera gente che sarà tornata da Torino o dalla Germania. I vecchi saranno padroni dei loro muretti, come poltrone di senatori, e i bambini sapranno che la minestra è poca. E che cosa significa un pezzo di pane? e la sera sarà più nera della fine del mondo. E di notte sentiremmo i grilli o i tuoni. E forse qualche giovane tra quei pochi tornati al nido tirerà fuori un mandolino. L'aria saprà di stracci bagnati, tutto sarà lontano, treni e corriere passeranno ogni tanto come in un sogno. E città grandi come mondi saranno piene di gente che va a piedi, coi vestiti grigi e dentro gli occhi una domanda che non è di soldi, ma è solo d'amore, soltanto d'amore. Le piccole fabbriche sul più bello di un prato verde, nella curva di un fiume, nel cuore di un vecchio bosco di quercia, crolleranno un poco per sera, muretto per muretto, lamiera per lamiera. E gli antichi palazzi saranno come montagne di pietra, soli e chiusi, come erano una volta. E la sera sarà più nera della fine del mondo. E di notte sentiremmo i grilli o i tuoni. L'aria sopra di stracci bagnati, tutto sarà lontano. Treni e corriere passeranno ogni tanto come in un sogno. E i banditi avranno il viso di una volta, con i capelli corti sul collo e gli occhi di loro madre pieni del nero delle notti di luna, e saranno armati solo di un coltello. Lo zoccolo del cavallo toccherà la terra, leggero come una farfalla, ricorderà ciò che è stato il silenzio, il mondo e ciò che sarà. Blu Radio Veneto. Bravissimo Cosimo, bravissimo Enrico, un pezzo di grande spessore, di grande intensità. L'hai cantato con tanto trasporto, si sentiva, si vedeva, anche il gesticolare aveva una sua funzione, secondo me. Sì, sì, poi vabbè, adesso, come dire, per questo è uno dei motivi per i quali volevo portarmi appresso questo brano, è proprio che il trasporto che si sente probabilmente proprio perché lo sento io tanto, no? Che è un testo importante. È un testo importante. Che è attualissimo anche adesso. È super attuale. Poi c'erano tutti questi riferimenti a Torino, insomma, che è la mia città, la Germania, dove è un'altra città dove comunque che ho conosciuto e dove si andava per cercare lavoro, cioè dove, da dove si tornava per tornare a lavorare, insomma. Ed è, come dire, un ritorno alla semplicità. Cioè farci pensare che comunque questa situazione che stiamo vivendo è una situazione di ritorno alla frugalità, no? Sì. Cioè cosa significa un pezzo di pane, insomma, che la minestra è poca, insomma, dover fare i conti con le piccole cose della quotidianità. Adesso forse abbiamo dovuto arrivare ad un punto tale di eccesso che probabilmente ci ha fatto perdere tante cose dell'umanità, e questa canzone è un ritorno proprio veramente all'essenza. Certamente, dobbiamo fare marcia indietro, purtroppo. Ma insomma, neanche purtroppo, è così. Ma direi più che altro nei rapporti umani, certo, insomma, nei, no? Rapporti, nei umani. Rapporti umani, sì. Benissimo, adesso facciamo una cosa molto interessante. Ricordiamo come si può acquistare o volere il tuo disco, caro Cosi? Allora, quindi possiamo ricitare l'etichetta Control Records? Sì, l'etichetta è la Control Records, edizioni New Model Label. Allora, il CD si può, no, il CD, io dico sempre CD, ma tanto ormai è tutto virtuale. Insomma, c'è iTunes, iTunes che ovviamente conoscono tutti, dal quale si può scaricare, insomma, cercando Cosimo Morleo, Geni Dominanti, esce fuori l'album e si può acquistare lì. E poi ci sono una serie di altri digital store che io per adesso non ricordo, ce ne sono diversi. C'è anche Amazon, ecco, Amazon. Sì, sì. E poi tutti quelli che potete immaginare, insomma c'è un po' dappertutto. E poi c'è anche su Spotify. Siamo su Spotify, eh. Siamo su Spotify. Sì, io non lo sapevo, poi l'ho scoperto. Siamo su Spotify. Delle new entry Spotify. Sì, Spotify è la nuova frontiera dell'ascolto musicale. Vabbè, comunque c'è anche quello. Scorrere dietro queste cose con una velocità pazzesca. Sì, io ormai non ce la faccio più. Che non è cantautorale. No, purtroppo devi... stride un po' con i tempi del cantautore, ma va bene. E poi c'è SoundCloud, che comunque è un'altra piattaforma di ascolto, insomma gratuito quello, e poi basta, penso di sì. Poi comunque c'è il sito cosimomorleo.com, e lì ci sono una serie di riferimenti anche rispetto ai live, insomma, se qualcuno ha intenzione. Ti ricordi qualche data? Ma allora, adesso praticamente saremo in questa formazione acustica, diciamo, tu e Enrico, io ed Enrico saremo a Cuneo al Club Dada, che è un club dove insomma si fa della buona musica, e dove, anzi tra l'altro li saluto perché dovrebbero essere in ascolto, sì, via internet, via internet. Saluti a tutti quelli del Club Dada, dove saremo domenica. E questa domenica, il 12, e poi saremo il 17 al Salone del Libro Off, sezione Off, che è appunto una fiera che si fa ogni anno nel Salone del Libro di Torino, è una manifestazione molto importante, e saremo appunto nel centro di Torino con uno o due appuntamenti, insomma, tra Piazza Vittorio e via San Massimo, insomma. E poi sentiremo cantare in una lingua anche in francese. Anche in francese. Canterò anche in francese. Canterai anche in francese. Ma sì, perché quest'anno c'è anche, come dire, questa cosa per cui Torino è anche gemellata con la Francia, con Parigi, insomma, e quindi ci sarà anche questa cosa in francese. Ma adesso appunto era divertente il discorso che facevi, no? Cioè? Sulla scelta del brano, quello un po' reggae, no? Ah sì, sì, sì, sì. Ma no, vabbè, sì. Ho scelto di Gaëtan Roussel questo, che è un po' leggero, no? Sì, che è un pezzo un po' leggero, che però in realtà parla del punto di vista delle cose, no? Dice, ci sono tante cose importanti, a volte ci sembrano troppo grosse o troppo piccole, ma dipende soltanto dal punto di vista dalle quali le osservi, no? E quindi sia per sdrammatizzare che per dare la giusta importanza alle cose, quindi mi sembrava carino nella sua essenzialità, e quindi ho detto facciamo una cosa un po' briosa, no? Visto che andiamo nella tana del lupo del divertimento torinese, no? Più o meno quella zona della movida, aiuto, no? Noi verremo sbranati con le nostre canzoncine impegnate, pop ma impegnate, no? E quindi ho detto mettiamo una bella canzone un po' svagata, no, perché il reggae va, Il reggae intrattiene tantissimo. Beh, voi avete a Torino Africa United, sì, sì, sì, quindi sì. Che è un gruppo reggae per antonomasia in Italia. Sì, sì, sì, loro hanno fatto appunto tanti dischi, più di tanti dischi, sono tanti anni che suonano. Sì, sì. Anche loro tanti chilometri. Tanti chilometri. Sì. È un successo meritato. Certo, certo. Tanto lavoro, tanta professionalità, sì, anche dietro, perché sì, poi cioè ci sono le canzoni che sono importanti, ma poi bisogna anche stare su un palco, saper suonare, bisogna anche saper, come dire, gestire lo stress, gestire le persone, perché non è sempre facile gestire le anime degli altri, no? Che si scontrano molto quando spesso quando c'è un gruppo è un po' difficile. Dopo tanti anni che stiamo insieme, c'è l'episodio chiaro, l'arrampante di Jagger e Richard, che non si vedono da 2-3 anni, si trovano solamente per i concerti, ma non si vedono proprio da un sacco di tempo, perché è così. Però nonostante tutto funziona, i Rolling ancora funzionano, vero? Altri no, non ce l'hanno fatta. E altri non ce l'hanno fatta, non si vedono, si odiano, tutto quello che vuoi. Richard ha fatto una sua biografia Life che ha distrutto l'antagonista, però sono ancora là. Sono ancora là. Sì, sì, sì. Ma infatti, guarda, io per esempio, nel nostro piccolo, io sono molto fortunato perché, come dire, ho la fortuna di suonare con delle persone belle proprio. Guarda, ci siamo costruiti questa squadra umanamente bella. sia proprio piacere di trovarsi, non solo per suonare ma anche per stare insieme, no? Ed è uno di questi lussi che di questi tempi mi piacerebbe permettermi di più, no? Poi per una serie di motivi, adesso con Enrico faremo oltre queste date anche una serie di altri appuntamenti in giro, belli, interessanti, però come dire, questa famosa recessione che stiamo vivendo, questa certo. crisi, porta comunque a tagliare moltissimo come dire, le spese per la musica dal vivo. No. Taglia la cultura, e musica è cultura. La musica a tutti gli effetti è cultura. A tutti gli effetti, ed è benessere, perché comunque cambia la vita delle persone. A volte una canzone ti può cambiare una giornata, o ti può cambiare appunto uno stato d'animo o un punto di vista su una cosa, no? A volte capita, a me è capitato che una canzone mi abbia proprio dato un input per una roba della mia esistenza, che poi si è sviluppata, no? È cultura, è progresso, perché comunque ricerca, insomma, no? Quindi sperimentazione. Purtroppo se tu non la fai, o se rendi tutto omologato, ad un certo punto la ricerca finisce, perché la ricerca la vai a fare certo. o altrove, come fanno le persone che scappano, oppure smetti di farla e fai quello che va. No, tanto per dirla brutalmente, quel che va, quello che adesso tira, ecco, musicalmente parlando, e che è una brutta cosa, però capita anche questo. Bene, adesso sono le 23:42, scusate, ho ancora l'orologio legato a Greenwich, a Londra praticamente, 23:42, abbiamo circa... È ancora il cucù tu. Esatto, è vero. Cos'è il cucù? Cucù. Esatto. Ok, no, non avevo capito. Ce l'ha data Schino. Adesso facciamo, non so, c'è ancora un pezzo da scaletta? Sì, sì, sì, la traccia numero 2 che si intitola... Che lingua è? Non de Plume Boulevard, ecco, non de Plume Boulevard, sì, sì, che è il pezzo che io e Alberto Pisco, che salutiamo il nostro direttore artistico che stasera vi ha voluto qua, abbiamo scelto come disco da lanciare, pezzo da lanciare dall'album di Cosimo ed Enrico. Coraggiosi, eh? Sì, a me perché è piaciuto molto. Cioè, è un pezzo che dove funziona il 3 su 4, lo so, fantastico. C'è una radio che investe su un pezzo così e... Noi siamo una radio che investe su quello che ci piace. La batteria suona in 4 e la band suona in 3. No, infatti, 3 quarti, quando te l'ho quarti. Proposto, secondo me volevi uccidermi. No, io pensavo più che altro al batterista, no? Eh sì. Poi va bene che Xir sì, suona sì. qualunque cosa. Sì, poi è una persona molto calma. Molto è calma. Molto bravo ed è anche molto calmo, perché suonare con tutti sopra che suonano 1, 2, 3, lui in 4 quarti. Sì. È dura, Poi dura. Però, come dire, nella risoluzione finale del pezzo non sì. si percepisce. No, però era, mi piaceva sottolinearlo, perché stiamo sì, sì. parlando di un cantautore. Certo, capito? Cioè, sempre di un 3 cantautore. Su 4. Attenzione. Sempre di un cantautore. Sì. Adesso lo sentiamo il pezzo. Ne sentiamo, poi ne parliamo e poi magari andiamo a finire la trasmissione con il live. Certamente. Buono. Scende la notte tropicale sulle tenere ritagli di giornale e sulla neve Central Park Greta Garbo saluta. Su pianure argentine, cieli stellati accesi come vetrine, al cinema si fumava e facevano fili per sognare. La fantasia è il mestiere di chi non ama parlare, come vendere nuvole ma mi dà da mangiare, dannazione di inchiostro a frugare la vita. Parole da ammaestrare, e qui proprio come nei film, quanti baci si danno anche senza amore, e dovrò finire per ricominciare, padri e figli balleranno insieme, vecchi tanghi di città. Potrà sbagliare mille vite intere camminando sulle stelle sopra i boulevard. profumi di periferie, come quelle di Roma, altri mondi, altre vie. Ma i caffè sono pieni di buone occasioni per parlare. La celebrità è una coperta sottile, buona per brevi voli e le mezze stagioni. La bellezza è prigione fatale per chi ci vuol campare. E qui, proprio come nei film, ci si sposa di bianco anche senza amore. E dovrà finire per ricominciare. Madri e figli balleranno insieme, vecchi tanghi di città. Si potrà sbagliare mille vite intere, o almeno finché musica suonerà. Destino d'ogni idea che non invecchi, sei così bella, ma sul finale ti nascondi. Camminando sulle stelle sopra i boulevard. Rock Wave. Rock Wave Live. Siamo quasi in chiusura di questo mercoledì live su Blu Radio Veneto. Questa serata live, più che tutto il mercoledì. Maurizio. Sì, intanto vogliamo sapere il significato, perché ogni pezzo ha un significato in questo disco e questo ha un altro significato. Sì, allora questo pezzo qui è un pezzo, come dire, che mi piace anche molto, nel senso al quale sono anche molto a noi legato. Musicalmente è piaciuto molto. Grazie, grazie. Ma anche questo nasce da una storia, nasce dal fatto che comunque quando ero ragazzo, il primo anno di università, ho conosciuto questo grandissimo scrittore italiano, in realtà è conosciuto molto per la sua opera di traduttore, Angelo Morino. Angelo Morino è stato il traduttore di Gabriel García Márquez, tanto per esempio, per dirne una, sì. Ma ha portato anche in Italia Manuel Puig, che è stato lo scrittore che poi è diventato famoso per Il bacio della donna ragno, sì. Questo film appunto con William Hurt. Ecco, Puig ha avuto una storia anche lui molto interessante e attraverso Angelo appunto sono riuscito a conoscere, ad affezionarmi a questo scrittore, sceneggiatore, che ha scritto sia per il cinema che per il teatro, insomma. E quindi ho raccontato un po' questa sua storia, no? Che comunque parte appunto da un'Argentina dalla quale poi si ritroverà esule per aver scritto delle cose e alla quale vorrà sempre tornare, da questa madre con cui c'era questo rapporto molto intenso. E quindi in realtà e poi si lega anche alla questa storia di Greta Garbo, no? Ed entrambi appunto facevano due mestieri, quello dello scrittore e quello dell'attore, che erano appunto due mestieri del, come dire, dell'interpretare e di mettere, come dire, dar forma delle idee, una attraverso il lavoro dello scrittore, quindi andando in prima persona in scena, e l'altro stando dietro, no? Però appunto questo brano vuole proprio essere, come dire, vuole ricordare questi due personaggi anche per la loro dimensione più intima. A un certo punto Greta Garbo se n'è andata dalle scene, si è sottratta, proprio nel momento in cui stava un po' sfiorendo anche questa sua bellezza, no? Questo sottrarsi a darsi il pasto al pubblico, insomma. E Puig, questo ritorno appunto da questa madre, insomma, mi piaceva questa immagine delle madri e figli che ballavano insieme, questa visione appunto della Greta Garbo che mentre sfiorisce si nega appunto per preservare invece se stessa. No? E quindi insomma è tutta una canzone che parla un po' di tutte queste tematiche, insomma, ed è soprattutto dedicata ad Angelo, che è stato uno dei miei maestri di vita, anche del modo di lavorare sulla poesia, insomma, veramente un grandissimo personaggio. Benissimo, adesso abbiamo circa 10 minuti scarsi. Abbiamo deciso di fare questo, caro Sergio, te lo dico. Sì. Mettiamo un pezzo da disco e poi terminiamo con un grande pezzo live. Sì. La traccia che voleste sentire? Vuoi dire sì. Tu? Allora, guarda, per fare un regalo al produttore artistico... Che sei te praticamente. Sì, sì, sì, sì. E per far vedere un'altra parte del mondo di Cosimo, la traccia si chiama Varsavia. Che era il numero... Piano Varsavia? Piano Varsavia. La numero 6. La numero 6. La numero 6. Purtroppo non ricordo la scaletta. Ecco, sì. Allora, la numero 6, grandissimo tecnico. Se volete la sentiamo subito oppure... Sì, no, era solo per dire che qui di nuovo c'è un po' la musica classica, no? Da cui arriva Cosimo. E secondo me vale la pena chiedergli due cosettine, ma proprio rapide, su questo pezzo. Vabbè, farò breve invece questa volta. Questa qui invece è una storia immaginaria. Che però è trae spunto dal Giunco Mormorante di Nina Berberova, che è un romanzo dal quale appunto si parla anche del ghetto di Varsavia, no? Sì. Quindi questo pezzo parla del ghetto di Varsavia e di questo pianista che si trova a suo malgrado dall'oggi al domani dentro questo ghetto e lo costringono a sparare, lo costringono a difendersi, no? Per sopravvivere, e quindi della storia di questo personaggio che ha sempre vissuto nelle nuvole e dall'oggi a domani si ritrova con un fucile in mano e la sua vita viene completamente sconvolta, lui che sognava di suonare Bach al grande concerto d'estate o Brahms, e insomma questa è la storia. Benissimo. Anche se non c'è più pace sulla terra. E questa era Piano Varsavia, la traccia numero 6 del disco di Cosimo Morleo. Maurizio. Sì, abbiamo finito, caro Sergio, abbiamo finito questa bella cavalcata con Geni Dominanti, che è il disco di Cosimo Morleo. Se lo ricordiamo. Sì, Geni Dominanti, disco di Cosimo Morleo della Contro Morleo, Records. Morleo. Morleo, pardon, non Forleo, è un'altra cosa. Sì. Un'altra Cosimo persona. Morleo è un'altra persona. Di un'altra radio. Ma no, era un conduttore non so. Radiofonico non so. Della Rai, anche, mi pare. Anche un giudice, era un giudice. Anche una conduttrice di radio. Ce ne sono tanti in Orleo, c'è solo Cosimo. No, con la M. Con la M. Certo. Geni certo. Dominanti, il suo nuovo album, l'album di esordio vero e proprio. Come possiamo sì, dire questo qui è il mio, sì. Mio finalmente, nel senso che ci ho messo un po', Però sei andato. Sì, sì, è andata. Speriamo che sia solo il primo, dai. Con Enrico Fornato, grande. Assolutamente grande chitarrista e produttore artistico importantissimo. Grazie. Il primo può darsi ce ne sia un altro. Ma sì, adesso dipende dal se verranno le canzoni, ma quello lo decideranno loro. Esatto. Io non posso decidere niente, loro, però insomma ho già fatto la seconda proposta a Enrico. Sì, ufficiale, l'ho già fatta. Bene, al è ancora produttore. Più difficile della prima, sì. Non svegliamo nulla. Sì, sarà ancora più difficile. Beh, la porterete qua la prossima proposta. Assolutamente, sì, ma sì, proprio assolutamente. I chilometri per voi si fanno volentierissimo, no, di cuore proprio. Siamo molto lusingati per questo. Bene Sergio, cosa dici? Chiudiamo? Chiudiamo. Prima volta che chiudiamo in anticipo di... Ma chiudiamo per modo di dire, perché adesso suona un pezzo. Ah, e allora... Ok. No. Cosa? Il prossimo è Tracine Tibet, un pezzo come dire, che parla del, come dire, della situazione. In realtà nasce da un reportage, una storia, un reportage di viaggio di un giornalista che raccontava appunto questa sua esperienza di viaggio tra la Cina e il Tibet, quindi quel territorio sterminato enorme che appunto li separa, queste due realtà così distanti proprio, ma che in questo momento sono, come dire, sono in una situazione molto problematica, perché la Cina, come sapete, appunto come dire, occupato in qualche maniera il Tibet, sì. E quindi c'è un po' questa situazione particolare, insomma, poi si intrecciano le due spiritualità e le due realtà, quella occidentale che tende a spingere, a spazzare via, e quella invece spirituale tibetana che è tradizionalista, che tende a stare lì e a voler preservare invece l'umanità, no, e i saperi secolari. Bene, grazie, buonanotte a tutti. Ringraziamo Sergio Bortolami in regia. Grazie a voi, grazie è stato Maurizio, grazie ai nostri ospiti. E domani sera ci sarà Agostino con Caffè Touré, che è un progetto multietnico, gente senegalese, brasiliana e italiana. Ah, molto bene. Bene. Buonanotte, grazie. Buonanotte a tutti. Attraversando in treno spazi sconfinati tra Cina e Tibet, sento ancora il profumo di incensi per le strade e vedo i monaci danzare sublime, e vedo bambini giocare al tramonto tra le rovine di un tempio indù, lo sguardo di una sposa sembra felice. Sento la vita sussurrare in ogni cosa, visione remota in un déjà vu. il tempo di una vita non mi basta più. Ed è come un risveglio in cui ci sei tu, camminando sull'Himalaya. I saggi hanno poche parole, la distanza è questione di luce. Qualcuno canta più in là, sublime. Vedo pastori cresciuti nel vento, volgere al passo di Kambala, geometrie di mandala, fiori di pesco. Vedo stranieri al palazzo d'inverno, tra mille candele divinità, il senso di una vita, e mangio la fragola. Ed è come un ritorno, e mi aspetto di più, camminando sull'Himalaya. I saggi hanno poche parole, il silenzio con le nuvole in un'orchestrazione. Il genio è banale in amore, principio d'ogni cosa, fine d'ogni estensione. Qualcuno canta più in là, sublime.